Allora, giorni fa, verso la fine della settimana scorsa, mi telefona un collega della radio e mi dice: sai, noi lanciamo questa proposta agli ascoltatori, la chiamiamo il mattonaggio, poi ti spiego una forma di sottoscrizione per la nuova sede, un po' complicata, ma quando ci vediamo ti spiego tutto. Venerdì 4, sabato 5, domenica 6, il palinsesto è un po' sottosopra e la vostra trasmissione naturalmente resta. Ma ci farebbe piacere se faceste qualcosa anche voi, non so, potreste parlare di mura, di mattoni, di quel che significano, del loro valore, in fondo è di questo che vi occupate, no? E visto che di questo in fondo che ci occupiamo, ho passato tutta la settimana cercando di farmi venire in mente qualcosa di intelligente da dirvi in tema di mura e mattoni, e non è mica tanto facile, Non è, come ve ne sarete accorti, non è mica tanto facile. I mattoni, dal punto di vista ideologico, sono degli elementi con un certo tasso d'ambiguità. Rita Pavone ballava il ballo del mattone con la passione della sua vita ed era contenta, sì, ma Claudio Villa, quando gli demolivano la casetta di Trastevere, vedeva i suoi sogni cadere mattone per mattone e non gli piaceva affatto. I mattoni sono oggetti tranquillizzanti quando li utilizza il sagace porcellino per costruirsi una casetta a prova di lupo cattivo, ma appaiono in una luce tutto diversa quando se ne serve Inas the Mouse per colpire ripetutamente alla nuca l'incantevole Crazy Cat nei ben noti fumetti di George Harriman. Ed è vero che forse la povera gatta, se è una gatta, come assicurano i traduttori diluendo l'ambiguità dell'originale, è vero che forse la povera gatta spasima segretamente per il perfido topo per cui quei mattoni vi aspetta e forse vi desidera, ma ammetterete anche voi che quel se e quel forse pongono un problema ideologico mica da ridere. Come non è un problema da poco quello di valutare colui che, come si dice, investe in mattoni invece di lanciarsi nelle brezza del mercato globale. È un individuo assennato e prudente, prototipo del buon padre di famiglia, o piuttosto non è un pavido la cui gretta cautela frena lo sviluppo finanziario del paese? Con i muri e le mura è ancora peggio. Un muro in sostanza serve per separare un dentro da un fuori, ma non fornisce elementi per stabilire quale sia il fuori e quale sia il dentro. La decisione dipende da noi, o almeno dovrebbe, perché in pratica spesso dipende da chi per un motivo o per l'altro ha il potere di prenderla. È uguale che quel potere comprende altrettanto spesso la facoltà di tenere dentro qualcuno che per conto suo preferirebbe star fuori e viceversa. E succede in tutte le prigioni e presso molti confini. E se quattro mura, soprattutto quando sono di solidi mattoni e non di fragili frasche, possono rivelarsi utilissime per tenere alla larga il gruppo cattivo de quo, è altrettanto vero che se per caso quella brutta bestia è riuscita a catturarvi, probabilmente vi rinchiuderà in uno sgabuzzino dalle mura non meno solide in attesa del momento giusto per farvi arrosto. E tra l'altro non è neanche necessario che qualcuno ti rinchiuda tra quattro mura e butti via la chiave, e puoi perdere la tua libertà rinchiudendoti tu in casa tua, asserragliandoti tra le mura che hai costruito e rifiutandoti più o meno consapevolmente di uscirne, e in questi casi puoi avere anche in tasca tutte le chiavi che vuoi, ma resti prigioniero lo stesso. E allora... Evidentemente quello che serve a tutti, ma forse a un'organizzazione come la nostra in particolare, è un tipo peculiare di muro, è un muro, diciamo così, unidirezionale, è capace di riparare dai lupi e dalle intemperie, ma in cui sia assolutamente impossibile rinchiudersi, un muro attraverso il quale sia sempre possibile proiettarsi all'infuori, che non induca quel pericoloso senso di sicurezza e autocompiacimento cui induce talvolta chi possiede qualcosa. Io francamente non so se le tecniche dell'edilizia e le consuetudini della proprietà immobiliare prevedano l'edificazione di muri di questo tipo, ma ci si può sempre provare. D'altronde ragazzi, sta un po' a voi, dovete starci attenti. Comperate pure i mattoncini, perché sembra proprio che di una nuova sede la radio abbia bisogno, e può darsi persino che io e la Came ci troviamo, non dico una scrivania, ma almeno un cassetto tutto per noi, che ne sentiamo il bisogno. Ma non scordatevi mai di tenerci d'occhio. Ove mostrassimo la minima tendenza a rinchiuderci tra le nostre nuove mura, prendeteci pure a mattonate nel senso letterale del termine.